Con la stampa l'innovazione è di tutti. Dalla redazione più tecnologica d'Europa le notizie ti raggiungono ovunque in tempo reale. Leggile su computer, tablet, smartphone. Condividile, sono tue. La stampa, il futuro è quotidiano. Radio 3, lezioni di musica. Giacomo Fronzi. Tema: omaggio a Joyce, di Luciano Berio. Buongiorno e ben ritrovati da Giacomo Fronzi. La lezione di musica di oggi sarà dedicata a una delle opere del Novecento musicale che più ne hanno segnato lo sviluppo. Stiamo parlando di Tema, omaggio a Joyce, elaborazione elettroacustica della voce di Katie Berberian sul nastro magnetico con testo di James Joyce. Lavoro realizzato da Luciano Berio nel 1958. E questo sarà per noi anche un modo per commemorare il maestro Berio nell'anno in cui ricorre il primo decennale della sua scomparsa, che ricordiamo è avvenuta il 27 maggio del 2003. Peraltro il 6 marzo ricorrevano invece i 30 anni dalla scomparsa della Berberian. Tema omaggio a Joyce, un brano per quattro canali della durata di poco più di 6 minuti, è senz'altro una pietra miliare nella storia della musica elettroacustica. E a mio avviso è anche un'opera rappresentativa di un particolare modo, che possiamo definire italiano, di partecipare della ventata elettroacustica dell'avanguardia musicale degli anni 50. Come noto, il cuore della ricerca musicale elettronica italiana nel secondo dopoguerra era lo studio di fonologia di Milano. Lo studio, creato nel 1955 presso la sede RAI milanese, è rimasto attivo fino al 1983, era il terzo grande laboratorio europeo insieme a quello di Parigi e di Colonia. E lo studio di fonologia di Milano si caratterizzava sia per l'alto livello degli strumenti disponibili, ma anche per la particolare ed eclettica commistione tra ricerca musicale, ricerca tecnologica e ricerca speculativa. Ricordiamo infatti la partecipazione, la collaborazione fornita da grandi intellettuali e musicologi come Luigi Rognoni o Piero Santi. Luciano Berio, primo animatore dello studio insieme a Bruno Maderna, si inserisce nel dibattito che si era aperto nel contesto milanese su quale dovesse essere il giusto equilibrio tra sperimentazione, invenzione semantica e artificio sonoro. In questo quadro, naturalmente, la prassi elettroacustica finisce con il diventare una via di emancipazione e di progettazione ulteriore dei campi sonori, anche attraverso il ricorso a contaminazioni prodotte dall'intreccio di mezzi e di sistemi espressivi differenti. E questo è quello che accade con l'opera di cui parliamo oggi, Tema, appunto, opera nella quale Berio, dopo l'esperienza fatta da Stockhausen con il suo Gesang der Junglinge, di qualche anno prima, 55-56, Berio rimette al centro il rapporto tra parola e suono, tra linguaggio narrativo e linguaggio musicale, senza utilizzare alcun suono propriamente elettrico, ma elaborando piuttosto segnali vocali registrati, frasi, parole e fonemi isolati. A spiked wine that in cold silent fists. I feel so lonely, miserable. Tema, quindi, è tutto giocato sul rapporto tra suono e parola. Luciano Berio ha ammesso di essere stato sempre molto sensibile, forse troppo, dichiara lo stesso Berio, troppo sensibile all'eccesso di connotazioni che la voce, qualsiasi cosa faccia, porta con sé. La voce, scrive Berio, significa sempre qualcosa, rimanda sempre ad altro da sé e crea una gamma molto vasta di associazioni culturali, musicali, quotidiane, emotive, fisiologiche. E questo interesse manifestato da Berio ritornerà poi anche in altri lavori degli anni 60. Pensiamo a Visage o a Folk Songs. Ma ritorniamo alla storia di Tema. Tra il 1958 e il 1959, mentre Berio era impegnato nelle sue ricerche sul suono, due piani sotto lo studio di fonologia, Umberto Eco lavorava su Joyce e spesso si trovava a passare la sera a casa Berio con Luciano e Katie, che era, come sappiamo, mezzo soprano, compositrice e in quegli anni moglie di Berio, passavano le serate leggendo pagine dello scrittore irlandese. È da qui che nasce un esperimento sonoro, il cui titolo originale doveva essere Omaggio a Joyce, documenti sulla qualità e onomatopeica del linguaggio poetico. Si trattava di una trasmissione radiofonica, che comunque non è mai andata in onda, di circa 40 minuti, in cui si iniziava leggendo l'11° capitolo dell'Ulisse di Joyce, il capitolo delle sirene per intenderci. Un capitolo che, come lo stesso Joyce ha dichiarato, aveva la struttura della fuga per Canonem. E questo aspetto ha molto interessato Berio, che così inizia a pensare a come poter combinare la lettura del capitolo, che si sarebbe dovuta svolgere utilizzando tre versioni, quella inglese, quella in francese, nella traduzione di Joyce e Valérie Larbaud, e quella in italiano, nella traduzione di Eugenio Montale. Però bisognava gradualmente allontanarsi dalla espressione enunciativa, lineare del testo, dalla sua condizione significativa, considerandone quindi gli aspetti fonetici e come potevano essere trasformati elettroacusticamente. Quindi, su una struttura intrinsecamente musicale, il testo di Joyce, appunto, si inserisce la creatività e il genio di Berio, che ha così iniziato a sovrapporre i testi a mo' di fuga. Quindi abbiamo detto come il testo di Joyce fosse già intrinsecamente musicale. A questo proposito Umberto Eco ha addirittura parlato di una vera e propria orgia di onomatopee e allitterazioni, presente appunto nell'11° capitolo dell'Ulisse di Joyce, opera pubblicata nel 1922. Ma c'è anche dell'altro, nel senso che Berio era convinto che la poesia e la musica tra 8 e 900 avessero condiviso alcuni aspetti. L'una e l'altra in quel periodo sembrano meno circoscritte nei loro mezzi e meno caratterizzate dai propri rispettivi procedimenti. E in effetti si inizia a non riconoscere poesia solo nel procedimento della versificazione o musica esclusivamente all'interno di parametri prestabiliti da una qualche cultura musicale. Inoltre, all'emancipazione ed isolamento della parola corrisponde in musica l'emancipazione e l'isolamento del suono. Emerge poi in ambedue i campi una nuova sensibilità verso lo spazio, capace di offrire delle nuove aperture espressive. Si è poi avuto anche un progressivo avvicinamento del lettore di versi all'interprete di musica, quantomeno rispetto al fatto che ambedue, come scrive nuovamente Berio, per realizzare uno dei numerosi risultati possibili, sono obbligati ad una adesione totale di coscienza all'opera. Se a tutto ciò aggiungiamo poi che la poesia è anche un messaggio verbale distribuito nel tempo, si comprende bene come la registrazione e i mezzi della musica elettronica potevano essere strumenti efficaci per offrirne un'idea più reale e concreta di quanto potesse fare ad esempio una lettura di versi pubblica o teatrale. È così che inizia l'esperienza di Tema. So lonely. Sì. Ma quali sono le operazioni che compie Berio? Cerchiamo di capire almeno a grandi linee, senza scendere troppo nel tecnico, quali sono state queste operazioni. Bene, Berio utilizza inizialmente una voce femminile per il testo in inglese e due voci maschili per i testi in francese e in italiano. Seguendo l'andamento del testo di Joyce, Berio sovrappone per tre volte la lettura in inglese a se stessa, iniziando però già a introdurre il riverbero, ma anche apportando delle prime modifiche sui rapporti di tempo e sui rapporti dinamici, in maniera continua, come fosse un moto pendolare. Al testo in francese aggiunge una seconda lettura, utilizzando però una voce femminile che va a sovrapporsi a quella maschile, che era già stata a sua volta sovrapposta una volta a se stessa. Ultimo passaggio di questa prima fase di montaggio è poi la sovrapposizione della lettura del testo in italiano utilizzando due voci maschili e una femminile. Per Berio era centrale andare oltre la semplice dizione dei versi, così da poter liberare la polifonia latente del testo. E Berio lo fa utilizzando un procedimento di combinazione delle lingue piuttosto semplice, e cioè scambiando le tre lingue in punti ben precisi, individuati da Berio con criteri o di somiglianza o di contrasto. Questo passaggio da una lingua all'altra avviene ora in maniera più rapida, ora in modo meno rapido, a seconda della lunghezza dei segmenti di testo utilizzati. L'aspetto interessante a questo proposito è che una volta che il meccanismo di passaggio da una lingua all'altra si è stabilizzato, questo passaggio non verrà più percepito dall'ascoltatore come una transizione da un contesto a un altro, ma come un'unica funzione musicale. E così, come Berio ha scritto nelle note all'opera, accade che attraverso una selezione e una riorganizzazione degli elementi fonetici e semantici del testo di Joyce, la giornata di Mr. Bloom a Dublino, sono le 4 del pomeriggio all'Ormond Bar, prende una direzione diversa, in cui non è più possibile distinguere tra parola e suono, tra suono e rumore, tra poesia e musica, ma dove ancora una volta diveniamo consapevoli della natura relativa di queste distinzioni e dei caratteri espressivi delle loro cangianti funzioni. L'obiettivo di Berio non è quello di mescolare due diversi sistemi espressivi, ma piuttosto invece quello di creare un rapporto di continuità, passando da uno all'altro senza darlo ad intendere. È evidente come si trattava di intenzioni non semplici da realizzare. Infatti passare da un sistema espressivo all'altro nasconde sempre comunque il pericolo di privilegiarne uno rispetto all'altro, anche perché resta comunque una divergenza insuperabile tra musica e poesia. Anche in casi di eccezionale conformità tra musica e poesia, come il caso dei Lieder tedeschi, con i quali ci troviamo di fronte a un miracolo di accordo quasi spontaneo tra struttura musicale e struttura poetica, ecco, anche in questi casi eccezionali rimaniamo comunque consapevoli delle divergenze, di un disaccordo espressivo tra il disegno musicale e il disegno poetico, tra strofe musicali e strofe poetiche, tra metro e rima, tra modi musicali e stati d'animo poetici. Thank you. Quello che stiamo ascoltando è ovviamente il risultato di una serie di operazioni tecniche, operazioni non tutte percepibili all'ascolto. Abbiamo accennato alle prime, cioè alla sovrapposizione e alla combinazione delle letture nelle tre lingue. Ma a Berio interessava poi moltiplicare e accrescere la trasformazione dei colori vocali proposti da una sola voce. Interessava scomporre le parole e riordinare, con criteri differenti, il materiale vocale risultante. È così che Berio procede con un'ulteriore selezione del materiale musicale. Viene ripresa la registrazione del testo inglese, in particolare vengono riprese quasi tutte le parole, che ora vengono classificate e unite in accordi, secondo una sorta di serie. Una serie che Berio definisce scala di colori vocali. Una scala che va dalla lettera A alla lettera U, compresi i dittonghi. Attraverso una costante variazione di velocità, Berio ha poi cercato di accentuare la continuità di questa scala, senza però mai snaturare i singoli caratteri vocali. Il risultato dell'elaborazione è stato un forte allontanamento dal meccanismo naturale della produzione vocale, creando così degli accostamenti di consonanti che ad esempio il nostro apparato vocale avvicina con grandissima difficoltà. Accostamenti come questi: b, p, t, d, t, b, k, g. Un altro intervento è stato poi di tipo ritmico. Nella discontinuità ritmica complessiva, Luciano Berio introduce degli elementi periodici tratti dal testo francese, ma anche la R italiana, soprattutto quella della frase morbida parola. Attraverso l'utilizzo di questi elementi, Berio riesce così a rendere più fluida la transizione tra vocali e consonanti, superando così di fatto ogni frattura e distinzione tra suono e rumore. Inoltre Berio ha lavorato sulle variazioni di durata e di frequenza. L'obiettivo era quello di far venire fuori nuovi rapporti all'interno del materiale e avvicinarsi il più possibile alla trasformazione naturale dei suoni vocali. Ad esempio il passaggio dalla lettera S alla F, dalla lettera F alla lettera V, e così via. Tra l'altro la lettera S è un po' il colore di fondo di tutto il pezzo e ci sono dei punti in particolare, sebbene appunto sia presente dall'inizio alla fine, ci sono dei punti in particolare in cui la S emerge, si può percepire in maniera molto chiara. Qui siamo nel primo minuto, emergeva chiaramente la lettera S che, come dicevo anche nel corso, no, nello sviluppo del lavoro, ritorna in maniera molto chiara. Qui siamo circa a metà del quinto minuto e poi signum del fatto che questa S è un po' il color di fondo, viene trascinata, per così dire, per parecchi secondi nella parte finale del lavoro. Sentite questa S che va dissolvendosi. Bene, se questo è lo schema, il contesto concettuale, la poetica, diciamo così, all'interno della quale prende forma tema omaggio a Joyce, vorrei concludere questa lezione sottolineando un ultimo importante aspetto. Credo che questo lavoro di Berio, come in fondo egli stesso ha sottolineato, rappresenti un po' il manifesto di una visione della musica e della sua funzione, a partire dal rapporto conflittuale tra suono naturale e suono sintetico. Berio, anche attraverso tema, attraverso l'opera di cui abbiamo parlato oggi, auspica infatti il superamento di questa distinzione, richiamando la necessità di purificare, dichiara Berio, purificare i nostri costumi musicali da ogni residuo dualistico. Ma perché ciò possa avvenire è necessario che ogni esperienza che coinvolge compositore, interprete e ascoltatore, un ascoltatore sempre più partecipante, non dimentichiamo che in quegli stessi anni Umberto Eco elaborava la sua teoria dell'opera aperta, dicevo, è necessario che ogni esperienza che coinvolge i tre attori, compositore, interprete e ascoltatore, passi attraverso un contatto vivo e permanente con la materia sonora. E allora tema lo possiamo intendere come un manifesto, senz'altro, ma anche come un appello. Alla fine degli anni 50 del Novecento, Berio invita i compositori ad allargare i propri mezzi musicali, senza distruggere nulla e senza impedire che gli stili personali dei compositori, scrive Berio, facciano sempre da ponte tra una forma e una materia rinnovate. A questo rinnovamento della materia e della forma, che interessa dei campi di ricerca acustica sempre più lontani tra loro, si collegano anche i nostri problemi spirituali, essendo esso, conclude Berio, il segno di un rinnovamento della coscienza, non solamente musicale, degli individui. Con queste parole di Luciano Berio, del quale domani, 27 maggio, si celebreranno i 10 anni dalla scomparsa, Giacomo Fronzi vi saluta e vi dà appuntamento a un'altra lezione di musica. Radio 3 Lezioni di Musica, a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare Tema, omaggio a Joyce di Luciano Berio dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.